tempo di sport. La risposta dell'Argentina è arrivata. Brasile aveva battuto, diciamo pure abbastanza nettamente, l'Italia in campo neutro. L'Argentina ha rifilato l'identico scarto di punteggio e direi anche di gioco alla Francia, addirittura a domicilio però stavolta, cioè a Marsiglia. E Messi, Leo Messi, ha fatto un altro passetto proprio sotto gli occhi del suo CT Maradona sulla via che porta per l'appunto alla qualifica definitiva di erede di Diego Maradona. Non c'è ancora arrivato, ma certo ci si sta avvicinando, e il colpo di ieri sera lo avvicina ulteriormente. È bella, rotonda, come si usa dire, anche la vittoria della Spagna sull'Inghilterra, un altro 2-0, tra l'altro il punteggio delle sfide ad alto livello di questo intermezzo internazionale, un altro 2-0, una serata in cui il solo Beckham tra gli inglesi ha avuto di che consolarsi. Perché? Ma perché, sia pure entrando nel secondo tempo, e quindi Capello gli ha riservato un trattamento insomma non proprio d'onore, direi, con questo ingresso nel secondo tempo ha raggiunto le 108 presenze con la maglia inglese, e quindi ha raggiunto Bobby Moore, ex capitano della nazionale. Stamane lui, Beckham, ha detto: sono molto onorato di averlo raggiunto, essere al fianco di leggende come Bobby Moore, Billy Wright e Bobby Charlton è qualcosa di veramente speciale, che in quel periodo tra il 2005 e il 2006, quando ho saltato molte partite, non pensavo più di riuscire a fare. Qualche voce dal mercoledì internazionale, perché ci sono poi anche le vicende di casa nostra che sono al momento minori rispetto a queste. Una è indiretta, cioè la vittoria dell'Irlanda di Trapattoni sulla Georgia, vittoria tra l'altro abbastanza discutibile, che però è arrivata e ha consentito all'Irlanda di raggiungere la squadra di Trapattoni, di raggiungere l'Italia al comando della classifica del girone di qualificazione. E poi c'è il pareggio casalingo dell'Under 21 con la Svezia, che non è un risultato particolarmente lusinghiero per i ragazzi di Casiraghi. Sentiamo il suo commento. È stata una partita molto, molto impegnativa. Sono contento perché abbiamo visto insomma che la Svezia è una squadra che ci metterà sicuramente in difficoltà, perché sotto piano fisico e anche tattico sono molto forti, quindi penso che la parte più utile sia stata questa, quella di vedere una squadra che troveremo nel nostro girone che è molto forte, quindi vuol dire che dovremmo essere pronti per riuscire a batterla. E questo era il commento di Gigi Casiraghi. Potremmo sentire ancora, anche mentre preparo l'argomento della puntata con l'ospite di casa, peraltro, che nel frattempo mi ha raggiunto, potremmo sentire anche il commento del centravanti dell'Under 21 e prossimamente, perché no, della nazionale maggiore. Credo che in prospettiva ci potrebbe essere uno spareggio per, come alternative tra Girardino e Toni, tra un attaccante molto giovane e di grande talento come per l'appunto Ocafresca che stiamo per sentire, e un non più giovane invece centravanti che sta facendo molto bene a Bergamo, che potrebbe essere un altro candidato, cioè Floccari. Sentiamo Ocafresca. Le scelte le fa il mister, quindi io e Mario possiamo parlare, possiamo sperare di giocare insieme, però va bene così, arriverà un giorno dove magari giocheremo insieme. Io guardo al futuro prossimo, che io gioco nel Cagliari, lui è nell'Inter, io devo meritarmi di arrivare nell'Inter, quindi devo continuare a far bene, a migliorare, e poi se arrivano nell'Inter bene io ce la metterò tutta, se no va bene il Cagliari. Le notizie di giornata. Beh, tra un'ora e mezza, se sarà puntuale, cadranno i veli sul nome di Mister X, il nuovo Paperon dei Paperoni, che promette o forse minaccia di strappare a Cairo la proprietà del Torino. Se ne parla da mesi, e oggi per l'appunto verrà svelata l'identità del misterioso scalatore. Una notizia che è arrivata da poco per agenzia, la trovo molto curiosa, ma anche con un certo fascino, e cioè è notizia data dal quotidiano francese Le Parisien, ma vera, cioè, certamente vera. Allora, il Real Madrid, su espressa richiesta del suo nuovo allenatore Juan de Ramos, ha già ingaggiato per la prossima stagione dall'Arsenal non un giocatore ma il giardiniere, si chiama Paul Barges. È addetto alla cura del manto erboso dell'Emirates Stadium, dove ha giocato, tra l'altro, dove si è giocato Italia-Brasile l'altra sera, e Ramos lo apprezza per la qualità di questo terreno di gioco dell'Arsenal. Da notare che Barges ha soltanto 30 anni, ma è già stato premiato per 5 volte come miglior giardiniere dell'anno in Inghilterra. Evidentemente là alla manutenzione dei campi tengono un po' più che da noi. È stato il riferimento numero uno, leggo in questa agenzia dell'UEFA, per i campi da gioco nella scorsa edizione degli europei di Austria e Svizzera. E il suo motto è: non esiste soddisfazione più grande che vedere la tua squadra vincere su un terreno di gioco immacolato. Arriviamo all'argomento di oggi con il bentornato Marco Bellinazzo. Ciao, buon Marco. Pomeriggio. Allora Marco, come sempre, è sceso d'un piano dalla redazione del Sole, ha portato una nutrita scaletta di argomenti che abbiamo ereditato e assemblato in questi giorni. Tu correggimi se sbaglio, il modello spagnolo che sta su cui si può discutere, perché è pesantissimamente indebitato il loro calcio, peggio del nostro, e tu naturalmente ci darai le cifre, il rosso dei bilanci dei club di Serie A, il rosso ma che sta però tendendo al rosa, nel senso che sta migliorando, dei debiti delle società di calcio nei confronti del fisco, non mai ancora fermato, quindi fin qua va bene. Tutto questo però preceduto da una messa a punto sul caso Beckham. Ci stiamo? Assolutamente. Allora, io ti leggo un paio di domande, ne sono arrivate molte di più per la verità, ma insomma un paio di mail, anzi una sola per guadagnare tempo. Una domanda spiritosa da Roberto Brivio da Lecco, che scrive: una domanda a tempo di sport al giorno toglie il dubbio di torno, lo ringraziamo di questa fiducia. Ma se il contratto di Beckham scade il 9 marzo a mercato chiuso, come farà il Milan a tesserarlo? O ha già depositato un contratto che parte dal 10, oppure quale altra soluzione? Ho paura che in questo caso ne instilleremo di dubbi più che risolverli, però non è colpa nostra, la situazione effettivamente è atipica, come si è accorto anche Michel Platini. E non mi meraviglierei se prossimamente, diciamo, situazioni contrattuali alla Beckham, cioè con prestiti temporanei all'interno della stagione, venissero vietate tout court. Noi abbiamo provato, insomma, a guardare un po' le regole dei trasferimenti internazionali, si è detto di tutto in questi giorni, insomma Beckham potrà pagare una penale e riconquistare la libertà, oppure il Milan potrà acquistarlo dalla sua squadra di Los Angeles, o addirittura ci potrà essere una, diciamo, un consensuale divorzio tra Beckham e i Los Angeles Galaxy. Cerchiamo di fare un po' d'ordine. Innanzitutto Beckham, io credo, da solo non potrà far nulla, nel senso che non potrà liberarsi in maniera unilaterale, neanche pagando una penale stratosferica, sì. Perché la risoluzione, diciamo, unilaterale del contratto in corso di stagione non è consentita, cioè lui potrebbe farlo, ma dopo non potrebbe essere tesserato, diciamo, quindi sgombriamo il campo da questa prima ipotesi. Cosa può accadere a questo punto? L'ipotesi che secondo me è più semplice dal punto di vista proprio contrattuale è che il prestito venga allungato fino al termine della stagione, e se ne è parlato molto in questi giorni. Sì. In sostanza si prolunga il contratto di affitto, diciamo così, come accadrebbe per esempio in un contratto di affitto di una casa. E il contratto registrato, il contratto iniziale, resta quello fatto a inizio stagione, quindi durante il periodo in cui era consentito il trasferimento, quindi il deposito viene fatto nei termini, perché quello che già è stato fatto, e non si pongono, diciamo, problemi, sì, di nessuna natura. Nell'ipotesi invece in cui il Beckham e la sua squadra di Los Angeles avessero la possibilità di mettersi d'accordo e chiudere il contratto, e quindi con la condizione per cui il Milan fa un nuovo contratto a Beckham, è chiaro che si andrebbe oltre i termini. C'è una scappatoia e c'è un problema nelle norme sui trasferimenti internazionali, nel senso che la federazione di destinazione, in questo caso la Federcalcio italiana, potrebbe ammettere il trasferimento di un giocatore svincolato senza più un contratto, ma ho trovato, insomma, questa clausola che mi sembra molto interessante, sulla quale a mio avviso poi gli avvocati potranno sbizzarrirsi, e cioè la federazione può appunto tesserare, ripeto, un giocatore senza contratto al di là dei termini che sono previsti, a patto però che sia salvaguardata l'integrità sportiva del campionato, si dice. Sì. Su questo parametro poi c'è tanto da discutere, perché insomma, se ora gli interisti faranno gli scongiuri, ma se un signor Beckham domenica dovesse, come dire, incidere sulla partita, sul derby, in maniera significativa, e nel proseguo del campionato incidere in maniera significativa sulle prestazioni del Milan, il Milan dovesse in qualche modo sopravanzare l'Inter, è chiaro che si aprirebbe uno scenario, diciamo, giuridico, nel senso che nessuno potrebbe a quel punto dubitare che le prestazioni di Beckham hanno influito sull'integrità sportiva del campionato, nel senso che l'Inter non ha potuto comprare giocatori al di fuori del periodo di trasferimento. Certo. E immagino, insomma, la signorilità dell'Inter non, cioè, impedirebbe uno scenario, insomma, di carte bollate, di tribunali, però è un... Però vediamo, ti dirò che per adesso non siamo alle carte bollate, ma qualcuno, c'è un ascoltatore, si chiama Gianrico Delfino, ha scritto già nei giorni scorsi dicendo: a questo proposito avevo rilevato come il mio Genoa ha subito un gol di Beckham trovandoselo di fronte e a mio avviso questo ha falsato la regolarità del campionato. Ora io continuo a pensare che quel gol di Beckham sia stato, cioè il campionato è stato falsato da come Rubinho si è messo sul, non sul palo, e ha messo male la barriera, però rimane il fatto che indubbiamente se si accertasse che appunto che in questo prestito c'è qualche appiglio, non è che vogliamo sollevare dei gialli qua, però stiamo semplicemente cercando di capire contrattualmente come si pone. La premessa che ho fatto è proprio di una situazione atipica che non è disciplinata nei regolamenti, laddove i prestiti normalmente sono considerati tali. Certo. In quanto durano una stagione o mezza stagione, comunque non sono, diciamo, prestiti temporanei. Gli scenari che si aprono, per esempio, quelli temuti da Platini, per esempio, potrebbero essere quelli di una squadra che deve affrontare una competizione breve, tipo penso al campionato del mondo per club, e che per l'occasione preleva giocatori da altre squadre e li utilizza e poi li restituisce, insomma. Ma a questo punto siamo quasi all'affitto di mano d'opera, vuol dire siamo in uno scenario che è un po' diverso da quello che è il calcio professionistico, così come lo abbiamo visto, interpretato e guardato in questi anni. Un ascoltatore ci informa, poi ospiteremo anche i loro interventi in diretta ovviamente su questa, ma direi ancora di più sulle altre materie che tu hai preparato. Ci informa Dario da Roma che il Milan ha già depositato il prestito fino al 30 giugno. Potrebbe essere uno scenario, ripeto, qui siamo di fronte a qualcosa di atipico. Di atipico, il Milan si sarà anche cautelato. Immagino di sì. Senti, l'ultimo sviluppo, e ti affiderei il commento, rimbalza direttamente dagli Stati Uniti. Lo estraggo da un articolo che sta per uscire su 24 minuti, e cioè sul pomeridiano del Sole 24 Ore, ricordo sempre in distribuzione gratuita a Milano e a Roma. E il testo è il seguente: l'immediato futuro calcista di Beckham sarà chiaro già prima del derby domenica sera. Lo ha stabilito Don Garber, il numero uno della Major League, che organizza il campionato statunitense di calcio, perché lo stesso Garber ha dichiarato che Los Angeles, Galaxy e Milan e il giocatore dovranno trovare una soluzione entro domani sera, termine ultimo inderogabile fissato per chiudere l'operazione. Se Davide vuole continuare a giocare nel Milan e il Milan vuole acquistare il cartellino, ha dichiarato ufficialmente, e per noi intende la Lega, che ha un ruolo attivo nella compravendita dei giocatori, a differenza che da noi le formule sono diverse, è disponibile ad accontentarli, purché entro venerdì sera. Dopodiché ha già fissato anche un prezzo, dicendo che, questo non l'ha detto ufficialmente, ma insomma l'ha fatto trapelare, per rispettare i parametri sia dell'acquisto avvenuto a suo tempo che di della vicenda nel suo complesso, il Milan dovrà per forza di cose offrire qualcosa più di 10 milioni di dollari, cioè 7 milioni e 8 di euro. Tutto questo ha un senso a parer tuo? Assolutamente, è una considerazione che nasce dal fatto che gli americani sanno di avere una posizione di forza in questo momento, perché, come ripeto, Beckham da solo non può fare nulla, insomma non può intervenire in maniera diretta sulla situazione, quindi deve per forza esserci un accordo con i Los Angeles Galaxy e la federazione, la Lega Americana. E chiaramente, insomma, si cerca di definire il prima possibile, di fare un po' di fretta al Milan per risolvere la questione. Fermo restando che qualora lo scenario fosse quello che si evoca in questa nota, cioè vendita da parte del Los Angeles Galaxy al Milan di Beckham, quindi con chiusura del vecchio contratto e quindi anche annullamento di fatto del contratto di prestito e creazione di un nuovo contratto, cioè quello definitivo di vendita del giocatore, si pone il problema del tesseramento, che è possibile salvo quella clausola, diciamo, della integrità sportiva del campionato, certo, di cui abbiamo parlato prima. Oh, mi scuso se si avverte al di là del microfono qualche fruscio di carte, ma insomma, tenere dietro, qui non stiamo parlando di cose opinabili, ma insomma, sto cercando di tenere dietro ad argomenti, come dire, sì, vagamente più... Con i numeri bisogna poi stare attenti, ecco, altrimenti poi gli ascoltatori ci bacchettano, bravissimo. I nostri sono molto molto attenti, e per fortuna. Per l'appunto preparando i numeri per la seconda parte dopo l'intervallo, qualche inevitabile battuta arriva, per esempio Ciro scrive: per Beckham non ci saranno mai problemi, al massimo arriverà in giro di 3 giorni una legge persona, ma insomma queste battute sono poi ammissibili e scontate. Dirà al vetro il vecchio cuore rossonero sogghigna beffardo. Materia economica, o forse per meglio dire finanziaria, non è facile orientarsi mai, ma nemmeno quando ci si occupa di pallone in questa chiave. Per esempio stamane, insomma, diciamo nella giornata di ieri, esce questa classifica mondiale dei ricavi certificata e si scopre che il Real Madrid è ampiamente al comando, seguito da Manchester United. Al terzo posto c'è il Barcellona, quindi un'altra grande società spagnola, e poi Bayern, Chelsea, Arsenal, Liverpool, ottavo Milan, nona Roma, decima Inter, undicesima Juventus. Questo come fatturato, no? E poi Marco ci spiegherà meglio che cosa significa esattamente. Però primo e terzo posto, quindi doppia posizione sul podio, tra cui quello più alto, per società spagnole, quando proprio il modello spagnolo recentemente è finito sul banco degli imputati, e non sul podio in questo caso, per una massa di debitoria assolutamente spaventosa. Beh, è solo apparentemente contraddittoria, nel senso che anche in Spagna, come sta avvenendo in Inghilterra o in Italia, c'è sempre più una spaccatura tra quelle che sono le società di vertice, che riescono a muovere un certo mercato perché hanno un mercato anche internazionale, e quindi questo significa grandi diritti televisivi, merchandising che dà grossi fatturati, e invece il resto del movimento calcistico che va impoverendosi sempre più, se pensiamo anche a quello che sta accadendo in Italia con la deriva che sta subendo la Serie B, insomma capiamo quanto può essere diciamo realistica questo tipo di classifica. Tra l'altro questa classifica che Deloitte ha pubblicato ieri fa riferimento alla scorsa stagione calcistica, quindi diciamo non si riscontra ancora l'impatto della crisi economica che ha colpito, come abbiamo spesso raccontato anche qui, molti club anche inglesi. In ogni caso ci aveva insomma incuriosito questa notizia che è apparsa la scorsa settimana dell'indebitamento del calcio spagnolo, parliamo qui di Liga ma anche della seconda divisione. Tra l'altro dati ufficiali, insomma certificati, perché si trattava di un'interrogazione insomma parlamentare, per equipararla al modello italiano, che era stato fatto al governo Zapatero. Il governo Zapatero quindi ha fornito queste cifre e è venuto fuori appunto che c'è un debito tributario, quindi debiti, tasse non pagate al fisco delle squadre spagnole, che intorno a 670 milioni di euro, e addirittura poi un indebitamento generale delle squadre che sfiora i 3 miliardi di euro, quindi evidentemente parliamo di cifre impressionanti. Sì, come attenuante invoco il fatto che si parla di prima e di seconda divisione insieme, però è un attenuante nel modo di dire, nel senso che rimane una somma di denaro spaventosa. Assolutamente, non così spaventosa se raffrontata per esempio a quella che era la situazione in Italia fino al 2007. Anche in quel caso c'è voluta un'interrogazione parlamentare per far venire fuori diciamo la montagna di debiti fiscali che avevano le squadre diciamo professionistiche, quindi Serie A, Serie B e Serie C, e che era intorno ai 750 milioni. Ecco, allora cominciamo dal fisco, poi vediamo l'altra situazione debitoria che ha fatto definire alcune squadre tipo Valencia, cioè squadre di primissimo livello, come tecnicamente fallite. Lì ci arriviamo. Facciamo un parallelo dei debiti fiscali. Allora, la Spagna è sotto i 630 milioni, 670 milioni. Noi eravamo oltre i 750 milioni come sistema complessivo. Cioè, un po' di tempo. Era la stagione, diciamo, i dati sono stati forniti nel 2007, ma si fermavano al 2005. Al 2005. Oggi com'è la situazione? Perché ci dicevi prima, se non sbaglio, che è migliorata, quello è il debito fiscale delle società italiane. La situazione è migliorata, anche perché, e poi dopo magari facciamo una valutazione su quello che è il caso Lazio, che è un caso a parte, in quei dati forniti, sono gli ultimi dati ufficiali, diciamo, forniti sulla situazione di debiti con il fisco, c'erano situazioni diciamo limite che poi sono sfociate in veri e propri fallimenti, cioè quelli del Napoli, della Fiorentina, del Torino, del Parma, che da soli avevano debiti quasi pari a 200 milioni di euro. Però questi debiti, ovviamente fallite quelle società, sono scomparsi dalla nostra rilevazione, ma sono scomparsi anche dalle casse del fisco, perché poi quando ci sono questi fallimenti, se si recupera il 5-10% di questi debiti è già grasso che cola. Certo. Quindi ci siamo presi un po' la briga di andare a guardare negli ultimi bilanci approvati dalle società, dalle 20 società di calcio, e il debito complessivo che hanno nei confronti del fisco è di circa 215 milioni di euro, con il caso Lazio che abbiamo detto che un po' primeggia con i suoi 80 milioni di euro. Però qualcuno lo ricorderà, la Lazio ha fatto nel 2005 un accordo con l'Agenzia delle Entrate per cui ha potuto spalmare, diciamo, negli anni il debito, le imposte non pagate, le ritenute non versate, e sta lentamente pagando, versando queste imposte. Sì, quindi tu fai il tecnico, io faccio veramente l'uomo della strada. 214 milioni attuali di debito sono una montagna di denaro che non riesco a immaginare, ma è pur sempre vero che rispetto a 750 di 2 anni prima o di 3 anni prima, significa aver rimontato. Sì, diciamo che la Serie A, con quella eccezione che ho detto prima, cioè il fatto che nei dati c'erano anche quelli delle società che poi sono fallite, aveva debiti per 370 milioni di euro, quindi tolti quelli, la situazione, diciamo, quelli sono stati persi, i debiti di Napoli, Torino, Fiorentina, cioè di quelle che sono fallite. Sì, solo il Parma per esempio aveva 80 milioni di euro che in parte poi sono state versate, in parte no, questo poi bisognerebbe capire. Quindi la famosa storia del Lodo Petrucci ha salvato il titolo sportivo, dice, cioè ha fatto del bene ai tifosi, al fisco magari un tantinello al fisco meno, un po' meno, cioè per intenderci, perché altrimenti poi sembra che diamo numeri e cifre, non si rende conto di quello che significa. Per esempio con 200 milioni si potrebbe finanziare la famosa social card, per esempio per 4-5 mesi per 1 milione di persone. I famosi, tanto per dare un parametro, senza peraltro, demagogia, semplicemente per rapportare. Peraltro queste calcio somme. Si sta abituando a queste cifre. Per esempio ieri la Corte dei Conti ha inaugurato il suo anno giudiziario e nella relazione sono state fornite un po' di cifre. Per esempio per Calciopoli, ai responsabili, quindi arbitri, dirigenti sportivi e tutti coloro che sono stati implicati nelle inchieste, per i danni creati d'immagine al CONI e per altri danni che si reputa appunto arrecati al sistema sportivo italiano, sono stati chiesti 240 milioni di risarcimento. 240 milioni. Però, è una bella cifra, non so se Moggi potrà far fronte. Moggi e i suoi boys, insomma, non soltanto lui, certamente. Oh, ci sono due ascoltatori in linea. Volevo anche dare conto di questa classifica dell'adempienza fiscale, no? Ma magari lo faremo più tardi. Daniele ha chiamato da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Dica. Sono un grande appassionato del calcio internazionale e dei campioni del passato. Sì. E vorrei chiedere tramite lei alle trasmissioni televisive magari di trasmettere più calcio giocato, le giocate dei campioni e magari il profilo dei calciatori del passato che invece che la moviola. Penso che ne guadagneremmo tutti, soprattutto per farci amare ancora di più questo sport. E anche perché, voglio dire, io sono una persona che si è fatto anche 200 km su per andare a vedere Baggio a Brescia, o anche se sono juventino non mi faccio problemi andare a vedere Inter Lazio, perché comunque mi piace vedere i grandi campioni. E niente, volevo dire questa cosa e poi soltanto chiedere a lei. Grazie. Avrei voluto chiederlo a Bortolotti ieri, sì, perché è un grande esperto di calcio internazionale, e secondo lui qual era, secondo lei in questo caso, qual è stato il più grande campione del passato che non aveva niente da invidiare ai vari Pelé, Maradona, Platini, eccetera, che però non è riuscito a diventare famoso come loro, insomma. Grazie. Ma è difficile dirlo non così su due piedi, poi su che parametri, su che base, cioè, uno diventa un fenomeno e un altro invece si perde per strada, ma chissà se aveva davvero quelle qualità. Guardi, la carriera, nella carriera di ogni campione, nelle belle interviste ad ogni grande campione c'è sempre la confessione di questo campione che dice: io da ragazzo giocavo con uno che in realtà era più bravo di me. È una costante, l'ho letto L'ho letto per forse non per Pelé, ma l'ho letto da Di Stefano, l'ho letto certamente da Rivera, lo si legge da Pereira. Rivera fa nome e cognome di questo ragazzo di Alessandria, e un giorno mi piacerebbe raccontarla questa storia, perché è una storia molto umana e di grande suggestione. Però come si fa poi ad avere le controprove, a sapere se quel talento si sarebbe evoluto, fino a che punto, se il carattere avrebbe sorretto il talento? Stiamo vedendo dei casi anche in questi giorni. Credo che sia una risposta impossibile, sia una domanda impossibile quella che lei pone. Si è chiusa anche la seconda manche del gigante femminile ai mondiali di Val d'Isère. La medaglia d'oro è andata a una tedesca, la Hölz, ha vinto a sorpresa, dice l'agenzia, quest'oro nel gigante femminile. Argento per una slovena, Tina Maze, bronzo per una finlandese, Putiainen. Quarta, Denise Carbon, insomma, comunque l'italiana, che ha perso il bronzo per 13 centesimi di secondo. Dovevamo un intervento urgente a un ascoltatore che ci sta aspettando da un po'. Mimmo ha chiamato da Varese, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Volevo riallacciarmi al derby di domenica. Ecco. Partita abbastanza importante per l'Inter, perché magari fa fuori quasi un avversario temibile. Volevo dirvi, ma come mai l'Inter, quando ci sono questi appuntamenti tipo con la Juve nel 98, 5 maggio 2002, Villarreal, Valencia, Liverpool, con la Roma 2 anni fa, col derby, questi appuntamenti testa a testa non riesce mai a vincere queste partite? No, mai non mi pare. Mai non mi pare, farei una distinzione tra quelli nazionali e quelli internazionali, eppure caduta la linea. Diciamo che era comunque un intervento resistibile. Non saprei sinceramente, ma mi sembra che in certi casi sia andata così, in altri meno. Poi si può risalire alla notte dei tempi volendo. Io resterei magari nella fattispecie alla stagione. Sta stagione ha certamente sbagliato la partita col Milan dell'andata, e su questo non c'è dubbio. Mi pare invece che abbia centrato quella con la Juventus, al di là dei risultati, parlo di prestazioni. Ha sbagliato molti appuntamenti in Coppa, anzi direi quasi tutti sul piano qualitativo, anche perché aveva un girone abbastanza ridicolo, e questo va ricordato. Adesso arrivano i banchi di prova veri, che cominciano domenica, ma che continueranno soprattutto poi con questa doppia sfida col Manchester United. Torniamo all'argomento di oggi. Mi ha incuriosito il titolo, direi, con cui è stato riassunto il tuo servizio su Sole 24 Ore, cioè che se parliamo di regolarità fiscale, lo scudetto per questa stagione l'ha vinto il Cagliari. Beh, ha soltanto 123.000 euro di debiti con l'erario, che sono diciamo in gran parte fisiologici, nel senso che sono debiti sugli stipendi, sono sulle ritenute degli stipendi, che poi vengono versate periodicamente, per cui quando si è chiuso il bilancio probabilmente risultavano ancora queste. Per cui diciamo che nel discorso sulla regolarità tributaria c'è un livello, diciamo, fisiologico, no, di indebitamento, perché ci sono i periodi in cui si versano queste ritenute. È chiaro che però che quando si va oltre una certa soglia, che dipende ovviamente dal monte ingaggi delle squadre, ovviamente l'Inter o il Milan pagano stipendi molto più cospicui rispetto a quelli del Cagliari, del Bologna, Lecce. Risalgo dalla classifica, scusami, è solo una parentesi, il bilancio più virtuoso dal punto di vista fiscale è quello del Cagliari, poi il Bologna, il Lecce, il Napoli, il Torino, la Sampdoria, e a salire fino ad arrivare a Milan, che è terz'ultimo, Inter che è penultima, e Lazio che, appunto, in virtù di quei 23 anni di spalmatura, guarda tutti da un Olimpo. Dall'alto. Però, riprendendo il discorso di prima, almeno li sta pagando, e certo, quindi lo Stato sta incassando questi soldi. A differenza delle società fallite, per cui forse andrebbe anche ripensata la politica di gestione, ecco, di queste situazioni di crisi. Tornando al discorso che facevamo prima, c'è una soglia, che, come dicevo, fisiologica. Laddove invece si supera questa soglia fisiologica, è chiaro che quei debiti rappresentano una sorta di autofinanziamento che si fa alla società, non paga le tasse, quindi evita di chiedere prestiti ben più onerosi alle banche, e tutti sappiamo quanto oggi possono essere onerosi e quanto difficile può essere soprattutto ottenere prestiti in questo momento dal sistema creditizio. Detto questo, c'è a mio avviso, da fare una valutazione complessiva su quello che è il rapporto tra debiti tributari e debiti complessivi che hanno registrato le varie squadre, società, sì. Per considerare quello che può essere appunto l'equità generale del torneo, visto che prima abbiamo evocato Platini. Platini ha fatto e sta conducendo una battaglia a livello continentale, perché le squadre che poi arrivano in finale nella Champions League siano anche squadre con i bilanci sani, che non finanziano, cosa che non sta accadendo da anni, cosa che probabilmente non sta accadendo, ma anche all'interno dei singoli campionati può essere un discorso valido, e anche questo non sta accadendo da anni, se parliamo per esempio del nostro, no? Visto che se Inter e Milan hanno più o meno 20 milioni di debiti con il fisco, è anche vero che hanno chiuso i bilanci di esercizio, ma questa non è una novità, se ne è parlato in queste settimane. L'Inter con 150 milioni di passivo, il Milan con 31 milioni. Anche qui sono poi le proprietà che ci mettono i soldi, uno potrà può percepire questo. Fatto sta che il livello poi degli ingaggi, il livello dei giocatori che certe squadre si possono permettere, evidentemente fa sì che ci siano poi forti, certo, squilibri all'interno dei, certo, dei tornei, e ne va della spettacolarità. Non è comunque certamente una novità che l'Inter sia in testa a tutte e due le classifiche, a quella che conta per il campionato, ma anche a quest'altra, e non è nemmeno un fatto di quest'anno, cioè è una costante. Parliamo più tardi magari invece dei bilanci virtuosi presentati, e cioè di chi invece appunto ha presentato i bilanci in nero e non in rosso. Davide da Genova, buongiorno. Davide è caduto, mi fanno cenno, e quindi oggi c'è qualche problemino di centralino, ma vediamo di risolverlo rapidamente. Parliamo di queste società virtuose. Chi comanda la classifica in questo senso per pulizia di bilancio? Per positività pulizia di bilancio e positività di bilancio, e direi che Napoli e Udinese hanno fatto un bel lavoro. Napoli ha chiuso con 12 milioni, l'Udinese con 8 milioni di attivo, ma per esempio anche la Roma ha un forte attivo, insomma, in quest'ultima stagione di circa 20 milioni. Sì. A Roma intendo, perché in passato insomma gli, sì, ascoltatori ci hanno richiamato sull'esatta distinzione, che a mio avviso è relativa, insomma. In ogni caso il club, la gestione del club ha garantito 20 milioni di attivo. Resta la situazione debitoria della proprietà della Delta Petroleum, la famiglia Sensi, che supera i 300 milioni. Pare che insomma si stia risolvendo senza necessità di una svendita del club, ma staremo a vedere quello che pregressi. La gestione attuale è corretta, anzi l'ultima stagione ha prodotto 20 milioni di utile, garantendo peraltro un livello tecnico e qualitativo dei calciatori importanti, segno che insomma una sana gestione del calcio anche ad alti livelli si può vedersi nell'ambito di una stessa società, e in fondo con la stessa proprietà, mi pare, no? Perché da quel punto di vista non è cambiato, sono cambiate le persone anche per ragioni. Però un bel segnale, insomma, quello della Roma, che sta risalendo, certo, la classifica, non solo quella sportiva, ma anche quest'altra. Abbiamo ripristinato il collegamento. Dica Davide, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. La mia domanda era questa: non si può mettere un tetto massimo ai debiti delle squadre di calcio? Cioè, se si potrebbe fare in futuro una cosa del genere, perché altrimenti le squadre forti che hanno tanti debiti vincono sempre, e le squadre mediocri o deboli, pur avendo pochi debiti, non faranno mai salti di qualità interessanti, diciamo. Davide, se lo dice a me, io sottoscrivo in pieno da subito. Credo che se lo sottoponiamo a Marco Bellinazzo ci dirà che è utopia, cioè, o è teoria, poi c'è una pratica. Beh, dal punto di vista ragionieristico sarebbe l'ideale. Perfetto. Avere dei tetti di indebitamento, e credo che insomma ci sia stato il tentativo in qualche modo di introdurre un principio di questo tipo, se non proprio delle cifre fisse, almeno insomma impostare per esempio l'iscrizione dei campionati a una regolarità fiscale, o addirittura una regolarità contributiva. Per esempio, sempre guardando i bilanci, ho potuto riscontrare che dal punto di vista invece dei contributi agli enti previdenziali ci sono solo 6 milioni di debiti, in grosso modo ogni squadra ha 200-300 mila euro ancora da versare sulla base appunto degli ultimi bilanci, salvo l'Inter che credo sia su un milione e due, sì, ma comunque cifre assolutamente compatibili con quella che è una corretta gestione aziendale. Chiaramente il bello del calcio, come si dice, è anche il fatto che società povere o deboli, pensiamo a quello che avviene per esempio in Germania in questo campionato, possano competere ad alti livelli, trovare giocatori importanti, sconosciuti, pagati poco. Chiaramente poi sono esperienze che si perdono nel giro di pochi anni, perché per competere ad alti livelli ci vogliono i diritti televisivi, ci vogliono i soldi, però è bello anche che ci sia la possibilità di sorprese temporanee. In Italia, certo, avvengono sempre meno, insomma, il, certo, caso del Verona è vecchio ormai di 23 anni e sta per dire 24. Marco, insomma, visto che siamo pressoché in chiusura, non del programma, ma di questa parte corposa, documentata e a parer mio, e non solo mio, leggo i messaggi di estremo interesse, la domanda è: non è una novità che Platini stia cercando di rappresentare il nuovo nel mondo del calcio internazionale? Tu hai ricordato ambedue gli interventi suoi. Il primo, la sua prima battaglia è stata e continua ad essere quella di bilanci puliti per essere ammessi alle coppe europee, minacciando severità future sempre più sempre più vive. L'ultima, anche se è un argomento certamente molto, molto minore, ma è comunque quella della tutela della regolarità dei campionati, evitando per l'appunto prestiti, okay, senza magari far nomi, lui l'ha fatto. Ma che cosa osta secondo te? Cioè, quali sono le forze più o meno oscure che stanno cercando di? La risposta te la prepari, perché mi fanno cenno che è ora di giustamente rimandare in onda il traffico. Quali sono le forze oscure, o più o meno, o magari anche in chiaro invece, che si oppongono a questo tentativo di regolarità, comunque da tutti i punti di vista? Chi si oppone al rinnovamento, allora, Marco Bellinazzo, alla trasparenza di bilanci e di regolamenti? Difficile dirlo. C'è una considerazione però che mi viene da fare, e come in tutti i campi, chi ha la gestione, chi ha il potere, chi ha, diciamo, la fetta maggiore dei guadagni da un certo sistema, non ha alcun interesse a che quel sistema cambi, e questo vale per l'Italia ma per tutta l'Europa. Vale anche per tutta l'Europa. Senti, una domanda a caso la estraggo da questo cumulo di mail e di messaggi che sono arrivati, perché moltissimi appassionati vogliono sapere come è piazzata la loro società. Allora vado veramente in ordine alfabetico, non possiamo dirle tutte. In ordine alfabetico arriva prima l'Atalanta. Buongiorno, scrive Carlo, riuscite a dirmi come è messa l'Atalanta? Perché noi bergamaschi, oltre che del settore giovanile, siamo orgogliosi di una squadra in ordine. È così? L'Atalanta ha un attivo di bilancio di 3 milioni di euro. Però secondo me lo sapeva. Però ha debiti tributari per 10 milioni di euro. Allora vorrei poi agganciarmi proprio a questa, sì, cosa che ha ricordato il nostro ascoltatore, per, sì, ricordare una terza battaglia di Platini che secondo me può essere fondamentale, sì, cioè quella che consente di dare una maggiore garanzia nei trasferimenti dei giocatori con meno di 18 anni. Tutelare i vivai con regole più severe ed evitare che quelle società più ricche vadano a prelevare e a, certo, fare man bassa nei vivai e giocatori più giovani può essere secondo me una di quelle piccole modifiche che però consentono cambi epocali nel sistema. Piccole ma cambi epocali, mi sembra che tu abbia detto veramente bene. Grazie allora. Grazie a voi, a Marco Bellinazzo. Chiudiamo questa non parentesi, chiudiamo questo argomento trainante di oggi. La prima cosa da fare a quest'ora del programma è il ripasso della storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 12 febbraio 1994. Inizia a Lillehammer, in Norvegia, la 17ª edizione delle Olimpiadi invernali, la prima nella storia a svolgersi in un anno diverso rispetto ai giochi estivi. L'Italia reciterà un ruolo da protagonista, chiudendo al quarto posto nel medagliere, dietro Russia, Norvegia e Germania. Saranno 20 le medaglie conquistate dalla squadra azzurra, miglior bottino di sempre, 7 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Fondamentale l'apporto nello sci di fondo di Manuela Di Centa, capace di salire sul podio in tutte e 5 le prove disputate. Nello sci alpino Deborah Compagnoni vincerà il gigante, bissando il successo ottenuto 2 anni prima ad Albertville in Super G. Isolde Kostner conquisterà 2 bronzi, mentre Alberto Tomba nello slalom otterrà un argento frutto di una straordinaria rimonta nella seconda manche. E questo era il ripasso, tra l'altro, di particolare suggestione. Abbiamo delle voci da ascoltare e abbiamo delle voci invece che vogliono intervenire. Vediamo di fare un dosaggio in questi ultimi 5-6 minuti di appuntamento. Angelo da Lodi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, niente, io volevo sapere, no? Perché dovuto al fatto al problema che c'è di trasferire il giocatore dal Galaxy al Milan, sì, nonostante c'è un contratto. Allora, come mai nonostante mantiene il contratto con la Russia, gli permettono di allenare il Chelsea fino a fine stagione? Lui no, il contratto con la Russia non l'ha rotto. Questa è una domanda. Poi se è possibile un suo personalissimo parere in percentuali dello scontro Atalanta-Roma di domenica. L'ascolto per radio, grazie. Sì. Allora, su domenica 33,33 per il segno 1, 33,33 per il segno X e altri 33,33 per il segno 2. Avanza 1,0 qualcosa. Il link credo sia liberissimo, il regolamento consente di fare questo e non credo. Fai un allenatore, mi sta dicendo Marco Berinazzo che prima di congedarsi è passato in regia, perché non si sa mai, è sempre meglio farmi da tutor se ci sono argomenti delicati. È un allenatore, non è un tipo, si può discutere anche su quello, ma si può discutere sul da un altro punto di vista più che regolamentare, cioè di efficienza in questo caso. Siamo sicuri che sarà in grado di battersi al meglio su entrambi i fronti. Io per esempio qualche dubbio l'avrei. Platini può pensarla come vuole, scrive Luca da Parma. Oggi non puoi vietare a nessun lavoratore di lavorare per 3 mesi in Italia e per il resto dell'anno dove gli pare. Smettiamo di dire stupidaggini. Fantastico. Se la smettiamo di dire stupidaggini, smettiamo di chiamare Becca un lavoratore, però anche, quindi, da parte mia, così, a occhio e croce. Nuccio da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono poco esperto di quello che è il calcio giocato, oppure essendo stato insegnante di educazione fisica per tanti anni. Sì. Sono fondamentalmente convinto che esistano due tipi di sportivi. Gli sportivi che praticano lo sport e quelli che lo condividono. Lo sport condiviso è fortemente praticato dagli italiani. Sì. E di questo me ne dolgo. Lo sport guardato. Non vorrei essere polemico, però forse c'è troppa attenzione verso queste problematiche che distraggono gli italiani probabilmente da altri problemi sicuramente più importanti. Sono dell'idea che con una battuta un po' polemica si potrebbe dire meno calcio e più fosforo per gli italiani. Cosa ne pensa? Penso che lei abbia perfettamente ragione, non c'è dubbio, ma d'altra parte così è sempre. Io penso che se dicessimo meno TV e più fosforo saremmo ancora, e non sto parlando di calcio in questo caso, la quota fosforica decollerebbe ancora di più. Credo ci siano altri vizi peggiori e che soprattutto hanno effetti ancora più deleteri sulle menti e sul fosforo rispetto a quanti non ne abbia il calcio. Ma certo, il calcio come lo viviamo in Italia in maniera così tribale non contribuisce certamente alla qualità, nemmeno alla qualità della vita, a parer mio. Ma poi si tratta per l'appunto sempre di dosaggi opportuni. Darei spazio a un'intervista che Mancini ha rilasciato a Sky, in cui parla di derby. Io ho sempre pensato che l'Inter non avrà difficoltà a vincere questo campionato. Chiaramente poi il derby è una partita particolare, quindi sfugge qualsiasi pronostico, non saprei dire come potrà andare. Sicuramente non sarà una partita semplice né per l'Inter né per il Milan, ma credo che poi alla fine comunque 8 punti, 7 sulla Juve, 8 sul Milan siano tanti. Fa un certo effetto a distanza di un anno ormai quasi sentire Mancini che parla dell'Inter. Eravamo abituati per anni, no? a sentirlo praticamente tutti i giorni. Ieri si è parlato di Kakà, di questo suo recupero, forse di questo suo possibile, non probabile, ma possibile recupero miracoloso per il derby. Le ultime voci che arrivano da Milanello tenderebbero invece ad escluderlo, ma qui mi pare che l'intervento dell'amico cagliaritano di prima si attaglia alla perfezione. Il problema non era tanto se Kakà poteva ce l'avrebbe fatto meno, il problema era la solita e consueta cultura del sospetto secondo cui Kakà aveva rifiutato la convocazione, eccetera. E allora mi pare che la di tutto quello che ho letto, giornali compresi, la sintesi più mirabile l'abbia scritta nel blog che ho per il Sole 24 Ore, abbia scritto Marco Traversi stamattina. Lo cito volentieri perché sono tre semplici righe che passo a leggervi. Quindi Kakà è uscito dal campo su di una zampetta sola al 33esimo del secondo tempo, col Milan bloccato sull'1-1 contro la Regina per inscenare un infortunio, evitare l'amichevole con la sua nazionale ed essere più pronto per il derby. Direi che il ragionamento fila alla grande. Complimenti davvero a Marco Traversi. Roberto da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io da poco che sento questa trasmissione non l'ho sentito dall'inizio, non vorrei essere troppo fuori tema anche se parlo di calcio. Ho sentito un signore che era intervenuto precedentemente e parlava dei grandi campioni del passato. Sì. Ecco, volevo, e poi la vado a sentire per radio che ce l'ho nell'altra stanza, quindi mi dia solo qualche secondo di tempo. Sì. Volevo, dato che non ne ho mai più sentito parlare, secondo me un grande campione del passato che non ha niente da invidiare ai Pelé, ai Maradona o ai Platini è sicuramente Johan Cruyff. Devo lasciarla andare nella stanza. Allora accelero con i saluti nel frattempo perché il tempo è praticamente scaduto. Spero che nel frattempo sia arrivata l'estirazione per dirle che Maradona, Pelé e Di Stefano si giocano il podio nella quasi unanimità dei pareri, ma se uno al posto di questi tre ci mette Cruyff al terzo, secondo posto, magari non al primo in assoluto, credo che non bestemmi certamente. E subito al di sotto di quel podio, se lo vogliamo rispettare nella sua classicità, c'è certamente Cruyff insieme a pochissimi altri. Grazie anche per il suo intervento conclusivo, grazie a Rudy in regia, vigilia dei derby, quindi è già Rudy, a Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio a tutti.